a slick chick. See, a neat chick. The she's what makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey, hey, hey. A hot heels on for the very first time. Very first time, man oh man, hey. It was a night. Hey, hey, hey, hey. Everybody stopped, we're on a dime to look. Hey, hey, hey, hey. Even my heart, my heart got a shook. Hey, hey, hey, hey. She's my clickety click, I'll stitch it. Told us where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran. Science fiction. A triffid that spits poison and kills. Dana Andrews said prunes, gave him the runes, and passing them used lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills. Like a picture show. in the back row. To the late night double feature picture show. Bentrovati e bentrovate a una nuova puntata di Slick Chick. E, visto che fuori c'è una luna particolarmente bella, la cosa è perfetta, probabilmente è un segno, perché stasera parleremo di fantascienza. E Slick Chick, la trasmissione che ormai spero stiate iniziando un po' a conoscere, è una trasmissione che parte da un dettaglio, un particolare, un tema un po' scelto a caso, non sempre a caso devo dire, e coglie il pretesto per farvi ascoltare un po' di musica di tutti i tipi. E siamo partiti dal Rocky Horror Picture Show, poi dopo vi dirò un po' perché. Fantascienza, dicevamo, perché è un temone, c'è veramente tantissime cose da dire e in realtà ce n'è troppe. Quando mi sono messa a cercare un po' di spunti e di idee, mi sono resa conto che era veramente una miniera piena di roba da scandagliare e per una sola puntata obiettivamente è veramente tanto. Si può parlare degli alieni, metaforici e non, della tecnologia, il futuro, il cyberspazio, le macchine, i robot, gli androidi, il postumano, i cyborg, un po' tutto quello che vi viene in mente. Ce n'è veramente da dire tantissimo, troppo appunto, e quindi ho deciso di dividere questo speciale, chiamiamolo così, sulla fantascienza in due puntate. La prima è questa che vi beccate oggi e la prossima, mercoledì prossimo, che vi annuncio sarà particolarmente speciale perché avremo un ospite di riguardo specialissima che mi aiuterà un pochino a dipanare tutte le cose, i nodi della fantascienza e orientarsi in questo mondo. Come vi dicevo, abbiamo iniziato da Rocky Horror Picture Show, il pezzo era Science Fiction Double Feature, l'avrete riconosciuto, perché mi sembrava proprio un buon inizio, ecco. È l'inizio, proprio il pezzo che avete sentito è l'intro, il pezzo iniziale del film, del rendimento cinematografico, del musical, che se non l'avete visto, siete pazzi, guardatelo assolutamente. E come tutto il glam rock inglese del periodo degli anni 70, il Rocky Horror Picture Show trova nella fantascienza e chiamiamolo quel fantasy horror un modo per mettere in discussione l'identità univoca e immobile che era stabilita, che è tuttora stabilita, dalla società. Come dice, ve lo ricordate, ve l'ho fatto sentire, la scorsa puntata, già non mi sto più ricordando, ma mi sembra di sì, no, forse quella prima, Johnny Thunder dice: la vostra società mi rende triste. E ecco che gli alieni ci vengono a portarcene una nuova, vengono in soccorso, ce ne portano una nuova, più affascinante, più ambigua, più caotica e libera. E quindi, proseguendo su questo mood, diciamo, come dicono le persone che sono alla moda, ovviamente rimango sul glam rock di quegli anni e arrivo agli Sparks. Gli Sparks sono un meraviglioso gruppo, secondo me veramente veramente bello e in Italia poco conosciuto e veramente sottovalutato, che è un gruppo che in un modo riduttivo potremmo definire glam, ma in realtà più per il periodo e per quell'androginia divertita che avevano, che non per la musica in sé, che è un po' più difficile da classificare, soprattutto negli anni successivi, dove si sono dati molto più all'elettronica. I fondatori erano i due fratelli Mal, che fuggirono dalla Los Angeles dei primi anni 70 e si rifugiarono a Londra, dove nel 74 trovarono un mondo decisamente più adatto a loro. conservarono un sano rancore e disprezzo per l'America, comprensibile, ma erano comunque troppo intelligenti per non apparire estremi e scandalosi, diciamo, anche in Inghilterra. Che un'Inghilterra che, ricordiamoci, nel 74 ancora stava faticando a digerire i cose come i T-Rex e Ziggy Stardust di Bowie. Il pezzo che vi faccio sentire è una parodia. È una parodia di quell'atmosfera da sogno americano anni 60, da cui erano arrivati, cioè nel senso che avevano appena smesso di vivere gli Sparks, in cui il futuro era un orizzonte meraviglioso, dove non sarebbe mai piovuto, tutto sarebbe stato bellissimo, le macchine ci avrebbero salvato e il mondo sarebbe stato nostro. Ora, noi in quel futuro, nel 2016, ci stiamo vivendo e probabilmente avremo qualche cosa da ridire al riguardo. Abbiamo da ridire parecchie cose perché il pezzo, ahimè, non parte e quindi direi che abbiamo un sacco di cose da ridire. Purtroppo il futuro non ci viene incontro, la tecnologia men che meno. Riprovo, pazientate un attimo. Ed erano gli Sparks, il pezzo, non vi avevo detto come si chiama In the Future, si poteva anche un po' capire perché lo dicevano in continuazione, è un pezzo del 1975, in uno dei primi dischi, non il primissimo, ma uno dei primi dischi degli Sparks. Davvero vi consiglio di andarvi a sentire un po' tutto il repertorio, il primo repertorio degli Sparks, perché sono bellissimi. Ne parleremo più in là, anche quando affronteremo il tema dell'androginia nella musica e delle vocette femminili, perché il cantante degli Sparks, avete sentito, aveva una meravigliosa, secondo me, vocetta, di cui sarebbe bello parlarne. E continuiamo e facciamo un passo indietro al 1967, perché insomma gli anni 70 sì, la fantascienza, ma tutto è iniziato molto prima, neanche nel 67 veramente, ancora prima, ma intanto rimaniamo al 1967 con i Pink Floyd. E il pezzo che ascoltiamo si chiama Astronomy Domine o Domine, perché in realtà pare che derivi dal latino, quindi potrebbe essere anche Astronomy Domine. La prima traccia del primo disco dei Pink Floyd, The Piper and the Gates of Dawn, essenzialmente parla dell'astronomia come lo studio dei corpi celesti e associata alla dominazione, quindi, dei corpi celesti, dell'astronomia in sé. Astronomy domain è nel senso proprio di dominare lo spazio e controllarlo per evidentemente esigenze ben poco altruistiche. Probabilmente quello che intendevano i Pink Floyd era una neanche troppo velata frecciata alla corsa allo spazio e alla guerra fredda tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, dove effettivamente lo spazio era un terreno di battaglia piuttosto importante e che aveva ben poco di romantico. La canzone, lo sentirete, all'inizio ha una voce che recita a nome delle stelle attraverso un megafono, e è la voce del manager dei Pink Floyd, Peter Jenner. Si pare che questo pezzo sia stato composto sfogliando un atlante dei satelliti dei pianeti, e quindi boh, evidentemente avranno avuto una ispirazione piuttosto esatta, diciamo. Infatti vengono elencati un po' tutti i nomi delle stelle. E niente, vi faccio sentire intanto questo pezzo. Sono tutti pezzi abbastanza corti oggi, tranne l'ultimo, ve lo preannuncio, ma per ora, insomma, potete rilassarvi, ma non troppo. Thank you. Questi erano i Prodigy con Out of Space. Penso che avrete intuito che non era la fine impazzita dei Pink Floyd, ma era un altro pezzo completamente, un'altra epoca completamente, 1992. E continuiamo il nostro viaggio nella fantascienza. Abbiamo parlato finora di cose abbastanza serie, del futuro, dello spazio, visto come insieme dei pianeti, satelliti, le stelle, tutto quanto. Veniamo alle cose serie, ovvero veniamo agli alieni e ai mostri venuti da un'altra dimensione, da altri spazi. Il pezzo che vi faccio sentire adesso è dei Blondie e si chiama Rapture. Un pezzo del 1980. Rapture parla di un uomo venuto da Marte che ti spara in testa e ti mangia il cervello. Sostanzialmente questo è il nodo centrale del pezzo. Il video non c'entra un cazzo. Nonostante, però, cioè, è interessante parlarne lo stesso perché non tanto il pezzo in sé, che francamente non è neanche particolarmente bello, ma il video ha qualcosa di speciale. Nonostante appunto si tratti dei blondi, il video di Rapture è passato alla storia come il primo video rap trasmesso in televisione, in broadcasting, passò su MTV. Siamo appunto nel 1980, gran parte della scena aveva ancora da avvenire, insomma era l'inizio, diciamo. Il video viene girato nel East Village, seppur ricostruita chiaramente in studio, però era nell'East Village, e ha come protagonisti un sacco di personaggi storici del giro come Fab Five Freddy, altri, ce ne sono diversi che io francamente faticherei anche a riconoscere, ma probabilmente chi ne sa di più di me di hip hop se li riconosce pure. Tanto per dire, siccome Grandmaster Flash non voleva apparire in video, che era un personaggio abbastanza schivo, al suo posto presero un personaggino come Basquiat. E Grandmaster Flash comunque utilizzò poi Rapture per mixarci e scricciarsi sopra, come era uso fare. E quindi vi faccio sentire questo Rapture dei Blondi e vi invito a guardarvi il video, che comunque come documento storico non è affatto male. E, ripeto, il pezzo non è proprio un pezzone, e i Blondi palesemente utilizzarono un pochino diciamo l'underground del momento, l'etichetta underground del momento, per non finire troppo in fondo alle vendite, per ripigliarsi un po' in un periodino che non era proprio dei migliori per i Blondi. Ma in realtà poi servì anche viceversa al rap del periodo, all'hip hop, alla cultura hip hop, perché effettivamente dobbiamo immaginare che in quel periodo non c'era proprio la musica rap, non passava né in radio né in televisione. Quindi se non eri nel posto giusto al momento giusto, tu la musica rap non la sentivi. Tant'è che la cantante dei Blondi ha dichiarato, non lo so se è attendibile, se bisogna credergli, ma insomma lei l'ha detto, che molti anni dopo, uno dei Wu-Tang Clan gli disse che scoprì il rap grazie a lei, perché era la prima volta che sentiva rappare alla radio, e dice che l'aveva sentito soltanto grazie ai Blondi. Qui in regia mi fanno dei cenni che insomma maliziosi, che potrebbero, cioè, diciamo che avrebbero qualcosa da ridire sui probabili rapporti tra i due, ma questo non ci interessa. Ci interessa il documento storico, quindi se vi piace andatevelo a vedere. Thank you. Then you hip hop and don't stop, just blast off, sure shot. Cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah. Erano i Blondie con Rapture del 1980, come vi raccontavo prima. E, prima di passare ai prossimi pezzi, vi ricordo brevissimamente i contatti a cui potete scriverci e insultarci e complimentarvi, i cosiddetti social wombat. Il sito wombat.noblogs.org, mi raccomando, date un'occhiata sia al palinsesto, sia, così vi ricordate quando sono trasmissioni, sia alla sezione delle trasmissioni, appunto, dove vi racconta, vi spiega quali puntate, cioè quali programmi ci sono per adesso sulla nostra radio e di cosa parlano e quando trovarli. Vi annuncio già che dalla prossima settimana si aggiungeranno ben due nuove trasmissioni, quindi restate con le orecchie aperte perché ne sentirete ancora delle belle. Poi il Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, e l'indirizzo di posta, postawombat@insiberia.net. E basta, vedete tutto velocissimamente, avete segnato, preso nota, tutto, e adesso passiamo ai Beastie Boys. Shout! I am known to do the what? questo è un pezzo che a me piace un sacco, i Beastie Boys, Intergalactic del 1998 nell'album Hello Nasty. Il video, se non l'avete visto, non ve lo ricordate, guardatevelo perché è proprio divertente. È una parodia di un, diciamo, quelli che vengono detti B-movie, che spesso non lo sono affatto, giapponese. Ed è un robot gigante che lotta contro un mostro polipo distruggendo la città sottostante. Ed è molto figo. E passiamo a, sempre rimanendo in tema di mostri, alieni, polipi giganti, robottoni, passiamo ovviamente ai Misfits e a un pezzone che è Astro Zombies. Il disco Walk Among Us, da cui è tratto il pezzo, del 1982, è un disco interamente dedicato alle atmosfere horror dei film di fantascienza degli anni 50-60, quelli sopra citati, B-movie. La copertina dell'album, se ve la ricordate, rende omaggio al mostro marziano del 1959, The Angry Red Planet, Marte distruggerà la Terra. Ottima traduzione italiana, in realtà ce ne sono di peggio, ma insomma. Astro Zombie, in particolare, invece, è un film horror di fantascienza del 1968 che parla di uno scienziato pazzo, licenziato dalla NASA, dall'Agenzia Spaziale, che per vendicarsi di questo affronto dà vita a un mostro superumano che va in giro ad ammazzare tutti. Misfits, che era un gruppone un po' ambiguazzo e obiettivamente con poco stile, che però finiti veramente in maniera pietosa gran parte di loro, però dobbiamo riconoscergli che, insomma, riguardo a alieni, zombie e quant'altro, immaginario, horror, fantascientifico, ne sapevano. Oggi, in questa prima puntata dedicata alla fantascienza, sto cercando di elencare un po', fare una panoramica un po' di tutti gli aspetti più giocosi anche della fantascienza, appunto i mostri, gli alieni, il terrore venuto dallo spazio, eccetera. Giocosa fino a un certo punto, ovviamente, perché poi chi è appassionato di fantascienza sa che il terrore, l'ansia, l'inquietudine associata ai mostri alieni che invadono le nostre vite, ovviamente scritto soprattutto in periodi come gli anni 50, 60, durante la Guerra Fredda, insomma, non erano soltanto giocosi, non si possono liquidare con uno scherzone, ecco. Però diciamo che, visti alla luce di adesso, sono un po' più divertenti quantomeno. La prossima puntata, visto che avremo anche appunto un ospite che mi aiuterà, andremo un po' più nel dettaglio di alcuni aspetti un po' più intimisti, un po' anche più incasinati. E primo fra tutti andremo a sondare il cyberpunk, quindi a partire dall'antenato del cyberpunk Ballard, per poi arrivare ai Gibson, Sterling, eccetera. Vi faremo un po' di letture, vi parleremo un po' di qualche impressione nostra riguardo al rapporto anche tra la musica e la fantascienza. E quindi oggi però appunto rimaniamo un po' sul faceto, salvo qualche deviazione, diciamo, un po' più seria, che riguardano essenzialmente l'identità dell'essere umano, il corpo e l'alieno, visto come metafora dell'alienazione che si prova dal proprio corpo. In particolare iniziamo con i gruppi, con le X-Ray Spex, i gruppi Riot Girl, Punk Garage, che hanno scritto diverse cose, suonato diverse cose secondo me veramente interessanti sull'alienazione dal corpo e sull'artificialità della percezione del sé. Ad esempio mi vengono in mente le conosciutissime, le Bikini Kill, con un brano che si chiama Alien She. E un gruppo invece, secondo me, molto più bello, cioè molto più apprezzabile delle Bikini Kill, onestamente, che sono appunto le X-Ray Spex. I know my heart. Queste erano le X-Ray Specs, come vi dicevo, Artificial del 1978. Artificial nel senso appunto di artificiale, perché il corpo viene visto come, dopo tutto il bombardamento pubblicitario della società che ti impone un corpo di un certo tipo, che deve essere adeguato a un certo tipo, in qualche modo il tuo corpo ti diventa quasi estraneo, diventa qualcosa di molto poco naturale e al contrario molto artificiale appunto. In questo senso gruppi come questo, che hanno parlato un sacco di queste cose, hanno molto a che fare secondo me con il cyberpunk e con tutto quello che raccontavano i vari Gibson, Sterling e dopo. Ad esempio un personaggio molto rimpianto, almeno da me, caro Nia, sarei curiosa di sapere se li ha mai sentiti e se li apprezzasse. Parlando di fantascienza, ovviamente il primo nome che si impone è David Bowie. È riduttivo dire che Bowie parlava di fantascienza, tanto quanto è riduttivo dire che la fantascienza parla di alieni e di dischi volanti. Tra l'altro c'è un bellissimo film di fantascienza, in realtà veramente di fantascienza, che ha come attore protagonista proprio Bowie, che è l'uomo che cade sulla Terra. Se non l'avete visto, ve lo consiglio assolutamente. Però, insomma, non è un caso che il primo pezzo di successo di Bowie sia stato Space Oddity, la storia del maggiore Tom, il Major Tom famoso, abbandonato nello spazio, perso nella solitudine dell'universo, che guarda la Terra dall'alto. Ovviamente avrei potuto quindi farvi sentire questo pezzo, così come avrei potuto scegliere Ziggy Stardust, per esempio, o Starman, l'ascesa, che parlano dell'ascesa e la caduta di Ziggy, un messaggero alieno che è venuto a liberare gli umani dal grigiore quotidiano. Avendo io un'anima, ve lo confesso, profondamente glam e adorando Bowie, essendo una grande fanatica di Bowie, di tutto il suo fantastico mondo, ho veramente faticato tantissimo a scegliere un solo pezzo. Avrei voluto in realtà sceglierne anche uno meno conosciuto, e invece alla fine vi faccio risentire uno dei più famosi, che è Life on Mars. Life on Mars, registrata nel 1971 ma pubblicata nel 73 in Hunky Dory. La versione che sentirete però non è la solita, è una inedita finora, pubblicata postuma dopo la morte di Bowie pochi giorni fa, è stata pubblicata l'11 novembre in un greatest hits appena uscito che si chiama Bowie Legacy. Non c'è la stupenda chitarra di Mick Ronson, ma in realtà secondo me anche scarna così a me fa venire i brividi, secondo me l'apprezzerete. Life on Mars parla di una ragazza di una periferia, che non meglio definita, che guarda la TV, guarda il mondo dentro e fuori casa e si chiede se almeno su Marte ci sia una vita che valga la pena di essere vissuta. Basta leggere una qualsiasi intervista a un qualsiasi fan di Bowie e di tutto un po' il glam rock di quel periodo, e praticamente tutti dicono la stessa cosa. Il glam, l'immagine androgina di Bowie, i suoi occhi eterocromi, la sua identità mutevole che cambiava in continuazione e mai fissa, ti faceva evadere dal grigio mondo ristretto in cui vivevi e sognare mille altri mondi possibili, che poi, almeno a mio vedere, è esattamente quello che ti fa fare la fantascienza e la letteratura fantastica. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know he's in the best-selling show. Is there life on Mars? Se non vi siete commossi, siete veramente delle brutte persone. Il prossimo pezzo di cui vi racconto è Freedom of Choice dei Devo. Il nome Devo viene dal termine devolution, de-evoluzione, non la devolution a cui purtroppo ci hanno abituato negli anni 90 in Italia. La devoluzione è teoria secondo cui l'umanità, invece di continuare ad evolversi, avrebbe cominciato a regredire, come dimostrerebbero le disfunzioni e la mentalità tutta della società americana, come dare torto alla teoria della devolution. I Devo vengono aiutati da Bowie, per l'appunto, di qui sopra, nel 1977, che li trova illuminanti. Il loro primo album, frutto anche di quel mondo e quel giro, perché insieme a Bowie anche Iggy Pop era un loro grande fan, vede infatti come produttore un personaggino come Brian Eno. Il pezzo, ora quello che sentiamo è Freedom of Choice, che secondo me è proprio un bel pezzone. Un altro brano in realtà, Something Never Change, per esempio compare nel videogame nel Romancer, tratto dall'omonimo romanzo di William Gibson, Neuromante. Non so se l'avete letto, se non l'avete letto, cazzo, leggetelo. E i Devo ovviamente non potevano metterli parlando di fantascienza, e quindi ora ve li faccio ascoltare, Freedom of Choice del 1980. E questi erano appunto i Divo, Freedom of Choice, libertà di scelta, ovviamente in maniera abbastanza una parodia della sbandierata libertà di scelta che ci viene data quotidianamente. E non ci restano più tanti pezzi, è una scaletta corta questo mercoledì, ne mancano due. Il prossimo pezzo sono i Parliament con Mothership Connection del 1975, tratto dall'omonimo album Mothership Connection. Il cantante e produttore è George Clinton, cioè notate l'omonimia di sti tempi, marca male. Disse una cosa del tipo: mi sono voluto immaginare un altro posto dove non avreste mai pensato di poter trovare dei neri, ovvero lo spazio. Ero un gran fan di Star Trek, e quindi mi sono immaginato una cosa tipo una navicella spaziale pimpata con i sedili molleggiati, come fosse una specie di Cadillac, e abbiamo tirato fuori questa atmosfera con un groove alla James Brown, ma con una camminata da strada e un slang da ghetto. Dedico questo pezzo ovviamente alla meravigliosa crew dei Breakers del Next Emerson. Well, all right. Star Child, citizens of the universe, recording angels. We have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership. I am the mothership connection. Get down in 3D. Light year groove. Well, all right. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boot, doing the bump. Hustle on over here. The bomb. On the mothership. Are you here? Say, fella. Doing it in 3D. So good, it's good to me. Questa era la saltellante Mothership Connection dei Parliament. Prima di salutarci, prima di lasciarvi all'ultimo pezzone, vi ricordo il nostro palinsesto provvisorio che, a cui via via si aggiungeranno nuove trasmissioni, ma che per adesso rimane questo, per questa settimana almeno rimane questo. Dopo di me, mi raccomando, rimanete sintonizzati, perché adesso più o meno verso tra un quarto d'ora circa inizierà 8 Hertz. Oggi abbiamo anche un ospite speciale, Pet Girl, vi anticipo, non lo dite a nessuno. E invece domani, giovedì, alle 7:30, è stato posticipato di mezz'ora causa traffico, sempre a Firenze, maledetto, l'Accademia della Brusca, l'appuntamento con la linguistica e le cose che riguardano la grammatica e gli errori che facciamo. E domenica invece, intorno alle 16:30, La Fuga del Gatto, con un po' di musica classica e gossip dal mondo antico, e alle 17:30, 18, insomma, a seguire 3000 siepi per voi curiosi sportivi che amate la fatica e il sudore. Poi ricominciamo martedì dalle 19 con il rovescio della medaglia, anche se vi annuncio già fin da adesso che lunedì è prevista una nuova trasmissione, quindi tenetevi in contatto, guardate sempre il sito, perché lunedì avrete una novità. E poi niente, si ricomincia mercoledì con sempre alle 21 Slick Chic e a seguire 8 Hertz. E basta, vi ho detto tutto, vi lascio con un pezzone, ve l'avevo preannunciato, secondo me è veramente bello, i nomi Snow. E il pezzo è Machine. Dai, Why Don't They Call Me Mr. Happy del 1993. È un pezzo abbastanza lungo perché dura quasi 8 minuti, ma secondo me vale veramente la pena di ascoltarselo tutto fino in fondo. Vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 21 con Slick Chick. Mi raccomando, rimanete ancora in ascolto di 8Hz e basta. Godetevi la luna piena. Ciao ciao! I'm a big machine. It looks like you. Don't you just love it? It's just like you. I love it. You love it. You know it's true. Echoes charm.